da questi sassi, sì, da questi sassi, scintillarne ben poco, onde la face accenderà Imeneo, a far delle nostre rampe una sorella. Orlando, o cielo, non paventar, Orlando non ne vedrà la fiamma. In me confida, e lasciami qui sola terminar del nostro amor la sorte. Perde, o bella, ogni lume, la gloria d'ubbidirti.